good enough. Better be good enough. Show love are good enough. Show love are good enough. Show love or it will. Show love are good enough. Yeah, it will. Super, super brano di Bobby Guy con Good Enough. Quindi proseguiamo con un gruppo vocale che, come si suol dire, non ha bisogno di presentazioni e che abbiamo già ascoltato e ascolteremo sicuramente altre volte qui a Soul Time. Loro sono le Supremes. Voglio farvi ascoltare quest'altro brano molto molto bello delle Supremes che si intitola Let Me Go The Right Way. Proprio due cenni storici, due, tanto per introdurre il brano di questo gruppo vocale femminile statunitense che ha avuto tanto tanto successo nel corso degli anni, in particolare negli anni 60. All'inizio le Supremes in realtà si chiamavano The Primettes e sono state fondate nel 1959 a Detroit nel Michigan. Furono il gruppo di maggior successo commerciale della Motown e andarono in vetta alla classifica statunitense decine e decine di volte. La maggior parte dei loro brani di successo furono scritti dal team produttivo della Motown, Holland Dozier Holland. Per questa puntata vi propongo questo bellissimo brano delle Supremes su, ovviamente, etichetta Tamla Motown, un brano del 1963. Ci ascoltiamo Let Me Go The Right Way, The Supremes. Supremes con Let Me Go The Right Way, gran brano anche questo. Dopo le Supremes ci spostiamo invece con un brano dalle atmosfere decisamente northern. Ci stiamo per ascoltare Mary Knight. nata nel 1920, non si sa bene se in Georgia o in Florida, anche se lei, questo almeno si sa, è cresciuta nel New Jersey, figlia di un operaio edile, iniziò come tanti altri, ormai sta diventando un po' ripetitivo, ma è così, anche Mary Knight iniziò a cantare in chiesa, nello specifico in una chiesa evangelista, e già che c'era si sposò anche un predicatore nel 1941, passando all'aspetto più prettamente musicale. Già nel 1946 Mary Knight iniziò le sue prime registrazioni per la Signature Records, come membro delle Sunset Four. Dopo queste prime incisioni dal 46 in poi fu notata niente poco di meno che da Sister Rosetta Tharpe, che rimase folgorata dalla voce di Mary Knight. La carriera proseguì negli anni e incise diversi brani, ottenendo sempre ottimi risultati, e poi intorno al 1948 iniziò a incidere per la Decca Records. Di Mary Knight vi propongo, come vi dicevo, questo brano decisamente dalle atmosfere Northern, un altro bellissimo flow fillers tipico del Northern Soul. Ci ascoltiamo That's No Way to Treat a Girl, Mary Knight. The taste of madness that your lips placed on mine has turned to sadness in such a little time. Now ending was never meant to be, and now Mary Knight con That's No Way to Treat a Girl. Passiamo da un Knight ad un altro Knight, nel caso specifico Gladys Knight. Non sono imparentati, almeno che io sappia, non credo. Quindi Gladys Knight and the Pips, un gruppo musicale soul e R&B statunitense originario di Atlanta e attivo dal 1953 al 1989. Il gruppo era guidato ovviamente da Gladys Knight. un gruppo conosciuto per aver prodotto diversi brani di successo con la Motown tra la seconda metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70. Tra questi brani mi si ricorda I Heard It to the Grapevine e Midnight Train to Georgia, che nel 73 arrivarono al primo posto nella Billboard Hot 100 per 2 settimane e vinsero anche un Grammy Award. La voce del gruppo è appunto Gladys Knight, nata ad Atlanta nel 44, mentre il gruppo che l'accompagnava, The Pips, era formato da suo fratello Merald Bulda Knight e dai cugini Edward Patton e William Guest, che erano i coristi, quindi un gruppo decisamente di famiglia. Quindi continuiamo con le atmosfere tipicamente northern, ci ascoltiamo Gladys Knight and The Pips, Stop and Get a Hold. I can't get used to seeing you. I can't get used to seeing you. Walking by with someone new. Walking by with someone new. Although you're no longer mine, to see you with someone else just hurts me so much to find. I have to stop and get a hold of myself. Stop and get a hold of myself. Gladys Knight and the Pips, Stop and Get a Hold. Con il prossimo brano passiamo agli Showmen, un gruppo americano di istanza a New Orleans, formatosi nel 1961. Un gruppo che, a differenza della gran parte dei musicisti che hanno registrato per le etichette di New Orleans controllate in buona parte da Joe Banachak, gli Showmen non erano originari di New Orleans, ma provenivano da Norfolk, esattamente in Virginia, e si sono trasferiti a New Orleans nel maggio del 1961 per registrare 15 brani sotto la supervisione dello studio di Allen Townsend. uno dei fondatori, il leader fondamentalmente e cantante principale di questo gruppo era Norman Johnson, che formò all'età di 12 anni il gruppo The Humdingers, che poi col tempo cambiarono nome e diventarono gli Showmen, quindi un gruppo formato quando il cantante principale aveva 12 anni. Poi passarono tra l'altro alla Swan Records, sotto questa etichetta gli Showmen registrarono diversi brani poi entrati nell'immaginario della scena Norden. Vi faccio ascoltare questo brano degli Showmen che si intitola The Wrong Girl. Did I fall in love with the wrong girl? The wrong place, the wrong time, in the wrong frame of mind. If this is true, I'll be blue, for I've fallen in love with you. Do you love me as I love you? With heart, with soul, with a love that will never go more. If this isn't true, I'll forever be blue, for I've fallen in love with you. Without you, my life is blue. Did I, or did I speak the wrong words to the wrong girl with the wrong, wrong heart, my darling? Can't you see? If this is true, I'll forever be blue, for I've fallen in love. Yes, I've fallen in love. I've fallen in love. I've fallen in love with who? No, no one else will do. Yes, I've fallen in love. No matter what the people may say, I'm gonna love you in the old way. For e questi erano The Showmen con il brano The Wrong Girl. Proseguiamo con Big My Bell, grandissima cantante. Big My Bell, nata Mabel Louise Smith, nata nel 1924, conosciuta appunto come Big My Bell, una cantante statunitense di R&B. Big My Bell nacque a Jackson nel Tennessee e iniziò anche lei giovanissima a esibirsi in chiesa come cantante e iniziò a registrare poi ufficialmente per la King Records nel 1947, ma la svolta definitiva della sua carriera avvenne nel 1952, quando firmò per la Oki Records, il cui produttore Fred Mendelsohn le ha dato il nome di scena Big My Bell a causa della sua voce molto molto forte, molto importante. La sua prima registrazione per Low Key fu subito un grandissimo successo e arrivò nella classifica R&B statunitense al primo colpo al numero 3 in classifica dopo la Hookie Records e una serie di successi appunto con la Hookie Records, periodo durante il quale tra l'altro collaborò anche con Quincy Jones, passò alla Savoy Records. Durante questo periodo anche incise diversi brani, in particolare si ricorda Candy nel 1956, che fu uno dei suoi brani di maggior successo. Poi dopo il 1959 continuò a cantare per una quantità infinita di etichette, ma non riuscì mai più a raggiungere le bette della fine degli anni 50. Quindi ci ascoltiamo questo gran brano di Big My Bell che si intitola I've Got a Feeling. Ad ascoltare adesso Jimmy Holiday, un cantante nato a Sallis nel Mississippi nel 1934, un cantautore e cantante R&B, anche lui americano, che iniziò a incidere agli inizi degli anni 60 per la Everest Records, mentre poi qualche anno dopo si mosse verso, anche lui, verso New Orleans, iniziando a lavorare per la Minute Records. la sua registrazione, il suo brano di debutto How Can I Forget, raggiunse subito la top 10 nel 1963. Vi faccio ascoltare questo brano di Jimmy Holiday, che tra l'altro è un pezzo per cui sono particolarmente in fissa in questi giorni, quindi vi consiglio di ascoltarlo perché a mio parere è veramente un brano straordinario. Ci ascoltiamo Jimmy Holiday con Love Me One More Time. Love me one more time. Love me one more time. Love me one more time, baby. Love me one more time. Love me one more time, mama. Just one more time. You know I need you in the middle of the night. Need you, darling, to make things alright. So come on home. Questo di Jimmy Holiday con Love Me One More Time. Proseguiamo con un predicatore. Il predicatore in questione è Jimmy Haley, o Jimmy Ellis, si trova con cognomi leggermente diversi sui dischi, meglio conosciuto come Jimmy Preacher Haley, appunto predicatore. James Jimmy Haley è nato nel 1935 e continua a lavorare all'età di 82 anni. È un musicista principalmente blues, nato in Arkansas appunto nel 1935, mentre però si spostò poi giovanissimo a Seattle con i suoi genitori. Seattle non in Canada, ma nello stato di Washington. Si è formato in una chiesa battista cantando nel coro, ed è stato un artista particolarmente longevo e anche particolarmente eclettico, in quanto sì, conosciuto principalmente come artista blues, ma ha creato anche bellissimi brani in ambito R&B, arrivando fino al funk psichedelico e al soul, particolarmente al soul degli anni 70. Per questa puntata del predicatore Jimmy Preacher Ellis vi faccio ascoltare I'm Gonna Do It By Myself, Jimmy Preacher Ellis. Let me make it up to you, little girl. Let me do things for you. Let me show you that my heart always been true. Don't do nothing, just stand right there. I'll do it by myself. You said I run around too much. Well, girl, here, take me in your arms. Let me get close to you and discover all your charm. Don't do nothing, just you be still. I wanna do it by myself. That I was running around with Sue, when all the time my whole heart and soul was only meant for you. Now I'm gonna feed you, not gonna teach you, girl. I'm gonna do it by myself. I'm gonna do it by myself. Gonna do it by myself. Oh, by myself. Not gonna teach you. Oh yeah, I'm gonna do it by myself. E questo era il nostro predicatore Jimmy Preacher Ellis, o Helly, dipende da come ci hanno attaccato l'etichetta sul disco. Quindi il prossimo brano, eccolo qui prontissimo, è un brano di Laverne Baker e Jimmy Ricks, gli amanti del genere probabilmente, anzi sicuramente, conosceranno questo bellissimo brano su etichetta Atlantic, stampato nel 1961, è cantato da Laverne Baker, una cantante nata a Chicago nel 29, occasionalmente anche conosciuta come Dolores Williams, perché prese il cognome da suo marito Eugene Williams. Nella seconda metà degli anni 40 firmò subito un contratto con la RCA, quindi subito con un'etichetta discografica molto importante, e contemporaneamente si esibiva con grande successo nei principali locali di Chicago. Poi nei primi anni 50 si tolse il proprio nome d'arte e adottò quello di Laverne Baker. Questo brano, oltre a Laverne Baker, ascoltiamo anche la voce di Jimmy Ricks. Jimmy Ricks, che nonostante una carriera solista di ottima qualità, è principalmente conosciuto per il suo lavoro con il gruppo The Ravens, uno dei gruppi più grandi della storia del R&B, con cui iniziò a lavorare fin nel 1946, gruppo che utilizzava un contrasto tra tenore e basso che divenne molto molto influente come stile sui gruppi che seguirono, proprio ispirati al lavoro e alle capacità vocali dei Ravens. Ci ascoltiamo questo brano in cui abbiamo insieme la voce di Laverne Baker e Jimmy Ricks, brano del 1961 su etichetta Atlantics. You Are the Boss, Laverne Baker e Jimmy Ricks. To bop and a natural finger popping, baby, you sure do swing. And when it comes to bopping and a natural finger popping, daddy, you are the king. Baby, you've got me beat up and down, inside out and across. Ooh, yeah. Talking about a dancing and a down-home romance, and daddy, you make the scene. Talking about dancing and down-home romance, and baby, you are the queen. Man, when push comes to shove, when it comes down to love, you're a horse. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. You're the best of everything. You're a peach. You're a plum. And you're a diamond. You're a pearl. You're the best of everything. And daddy, you're my man. And baby, you're my girl. When it comes to knowing which way the wind is blowing, baby, you sure are wise. And when it comes to knowing which way the wind is blowing, daddy, you get the prize. Baby, you're a genius when it comes to cooking up some chili sauce. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. No, baby, hey, you're the boss. E anche qui contrasto molto molto importante tra la voce bassissima di Jimmy e la voce cristallina di Laverne Baker. Proseguiamo perché il tempo stringe, quindi ridurrò un pochino le chiacchiere in maniera tale da rientrare con i brani che ho preparato per questa puntata. Ci andiamo ad ascoltare adesso Lew Konnetta, cognome italo-americano, Lew Konnetta, con questo brano che si intitola You've Got Me Crazy, brano stampato dalla Decca nel 1957. Lui è Lew Konnetta con You've Got Me Crazy. Like a voodoo drum. What did you do to hoodoo me? What have I done? You've got me crazy, baby. Crazy in the head. You've got me crazy, baby. I wish I was dead. I was dead. wish I was dead. You've got me crazy, baby. You've got me crazy, baby. Leo connetta con You Got Me Crazy, quindi ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano, eccolo qua preparato, l'ultimo brano per questa puntata. Anche oggi in conclusione non mi rimane che ricordarvi l'appuntamento con Soul Time, che ritorna mercoledì prossimo. Vi ricordo anche che è possibile ascoltare il podcast più o meno da giovedì, venerdì in poi dell'ultima puntata andata in onda. Lo trovate sul sito radiowombat.noblogs.org. Vi anticipo che la prossima puntata, anzi le prossime due puntate, saranno puntate speciali, come ogni tanto faccio qui per Soul Time, dedicate a etichette particolari o locali storici, eccetera eccetera. Nelle prossime due puntate ci ascolteremo Ray Charles, ma non lo sentiremo fondamentalmente mai cantare, ma ci occuperemo di Ray Charles come produttore per la sua etichetta Tangerine Records, e vi assicuro ascolteremo brani di grandissima qualità. Rimane il tempo per un'ultima canzone, direi di andarcela decisamente ad ascoltare. Ci andiamo ad ascoltare Little Ray con questo brano di anno sconosciuto, non si sa benissimo in che anno è stato stampato, o perlomeno io non ho trovato particolari informazioni. Il brano si intitola Come Swim With Me. Little Ray è stato un cantante nativo di Chicago, la cui carriera ebbe maggior successo durante gli anni 60, con un genere particolare di R&B up-tempo. Poi tra l'altro Little Ray per un breve periodo si esibì anche con una band di Los Angeles, i The Midnighters, di cui magari in futuro andremo anche ad ascoltare qualcosa. Quindi vi lascio con quest'ultimo brano, Little Ray, Come Swim With Me, stampato su etichetta Faro Production. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata, mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat.